Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Oggi è il 2 di settembre e siete sintonizzati su Radio 24 del Sole 24 Ore. Quella che state ascoltando è Italia in controluce, è il programma di Radio 24 che parla di cronaca, di politica, di costume italiano. Come si è riorganizzata Cosa Nostra a Palermo? Quali sono gli affari della mafia in Sicilia? Chi sono i boss emergenti? Il nostro reportage firmato da Nino Amadore. Sembra banale, ma è sempre stato ed è così. I mandamenti, la tradizionale divisione dei quartieri di Palermo e delle aree della provincia e delle altre province in cui si estende la violenza mafiosa, sono il dettaglio geografico di un'organizzazione che ha avuto e ha ancora oggi tutto grazie alla presenza fisica, in un contesto che negli anni si è abituata a questa nuova regola, imparando a riconoscere e a leggere i segnali che dalle facce, dai discorsi, arrivano ogni giorno. Secoli di dominio hanno portato al consenso e alla tolleranza. La mafia ancora oggi sa che può contare su questo, lo spiega Maurizio De Lucia, oggi sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia e per anni impegnato in prima linea proprio a Palermo in delicate inchieste su Cosa Nostra. Quando parliamo di Cosa Nostra parliamo di territorio, nel senso che non possiamo neppure concepire Cosa Nostra senza un territorio. Cosa Nostra è ancora la Cosa Nostra di sempre, ma non c'è dubbio che Cosa Nostra al territorio non può rinunciare. Senza territorio avremo un'organizzazione criminale, ma non avremo un'organizzazione criminale di tipo mafioso come è Cosa Nostra. Territorio, popolo, regole sono i tre elementi che fanno, ma non da oggi, di Cosa Nostra una struttura diversa da tutte le altre mafie e da tutte le altre organizzazioni criminali. Cosa Nostra è un popolo, i suoi soldati, con una struttura gerarchica fatta di capi decina, di capi famiglia, capi mandamento e di una commissione centrale che in questo momento non funziona ma che rimane nella costituzione formale dell'organizzazione mafiosa. Cosa Nostra ha delle regole, da quelle più note, il principio di omertà, l'obbligo di dire la verità, regole intendiamoci che poi nella pratica possono essere derogate ma che rimangono parte della struttura, del modo di pensare dei mafiosi, ma soprattutto Cosa Nostra deve avere un territorio dove esercitare la sua sovranità. Palermo è divisa, come sappiamo fin dai tempi di Marino Mannoia, in 13 mandamenti, ciascuno di essi è amministrato dal punto di vista mafioso da una parte dell'organizzazione mafiosa. La famiglia è il mandamento, ha il potere impositivo, il pizzo non è altro che questo, il richiedere sostanzialmente una tassa a coloro i quali esercitano attività economiche su quel territorio. Tante cose è molto molto simile allo Stato. Ed è sempre così, non è cambiato, diciamo, questo tipo di struttura, nonostante, diciamo, una l'ha fatta lei, Perseo per esempio, e altra. Proprio questo è uno degli strumenti, o meglio, uno dei parametri attraverso i quali noi possiamo capire che Cosa Nostra è sempre Cosa Nostra. Cioè Cosa Nostra non può rinunciare al governo del territorio, anche oggi, quando è oramai notorio dire che l'organizzazione criminale è in crisi dal punto di vista della incapacità di assumere scelte strategiche particolari o di rilanciarsi, ma rimane viva proprio perché continua e per lei è irrinunciabile, continua a governare il suo territorio, con episodi non particolarmente eclatanti, ma soprattutto attraverso il costante, la continua costante vessazione di tutte le attività commerciali. E in questo sta non soltanto la capacità di recuperare denaro, ma sta soprattutto il manifestarsi in maniera in qualche modo non violenta, nel senso che non c'è bisogno di far esplodere le bombe davanti ai negozi per ottenere una cifra, se vogliamo, talvolta anche simbolica. Non è così che la mafia si arricchisce, ma serve l'avere il pizzo a ottenere in qualche modo l'omaggio dei sudditi. Presidiare il territorio. Assolutamente, presidiare e governare il territorio. Il pizzo è anche uno strumento di intervento nell'economia di quella determinata zona della città. E chi paga il pizzo acquisisce anche un servizio dal mafioso e dunque se ad esempio, come è successo e come noi in alcune indagini abbiamo dimostrato, l'ampliamento di un'attività commerciale che potesse potenzialmente danneggiare un concorrente, se entrambi gli imprenditori, quello che si vuole ampliare e l'altro che subirebbe l'ampliamento, sono legati all'organizzazione mafiosa attraverso il pagamento del pizzo, beh, la decisione se ampliare o meno quell'esercizio commerciale dipende dalla scelta del capomafia che governa in quel momento il territorio e la famiglia, perché tiene conto di una serie di parametri, la quota di pizzo che comunque viene a inglobare, ma il consenso che quell'apertura di un altro negozio, ampliamento di quel negozio gli dà sul territorio rispetto all'eventuale chiusura del concorrente. Ecco, quindi siamo a qualcosa che va ben oltre e la semplice riscossione del pizzo, è proprio il governo dell'economia e quindi del territorio. Parliamo di punti importanti della città di Palermo, e Palermo è una città importante, dunque siamo strategico, sì. Esatto. Ma parliamo di denaro, di imprenditoria. Lei alla Procura Nazionale ha un occhio anche, diciamo, di riguardo anche sulle altre aree della Sicilia. Come è cambiato il rapporto con gli investimenti? I grandi investimenti dipendono da altre attività criminali. Una di queste è, da un lato, la gestione degli appalti, dall'altro la gestione delle imprese mafiose. Consideriamo che Cosa Nostra non nasce oggi, nasce tanti e tanti anni fa e nel tempo ha accumulato una quantità enorme di capitali, molti di questi sono già oggi investiti in un'economia paralecita con delle imprese di tipo mafioso o che delle imprese mafiose. Imprese mafiose non sono solo quelle che impongono con la violenza il monopolio in una determinata zona o area imprenditoriale, ma sono anche quelle che hanno fondi mafiosi da sempre e quei fondi devono reinvestire. E quindi oggi che cosa fanno? Beh, intanto quello che hanno sempre fatto, dunque Movimento Terra, edilizia, anche se risentono da questo punto di vista della crisi, e interesse agli appalti dal punto di vista elementare della gestione degli appalti, cioè quello che può fare un'impresa semplice, tre camion per spostare la terra, e lì col meccanismo dei subappalti le imprese mafiose, pensiamo ai piccoli comuni dell'Interland agrigentino, traponese, anche palermitano, beh, lì c'è un grande interesse mafioso. Poi però ci sono grandi capitali da investire e allora si guarda verso il futuro e c'è una grande attenzione ad esempio alle energie alternative. Intendiamoci, le energie alternative sono un bene assoluto evidentemente, ma la gestione degli appalti, lo sfruttamento di alcuni settori della filiera produttiva in tema sia di eolico che di fotovoltaico sono di grande interesse per le mafie. Pensiamo al cemento che serve per edificare le pale eoliche, ma pensiamo anche ai terreni dove si collocano i pannelli fotovoltaici. Non dico che l'impresa mafiosa, che pure ci può stare in alcune eccezioni, produca prodotti di qualità tecnologicamente evoluta, ma certamente il mafioso ha un interesse alla gestione dei terreni, e qui c'è un rapporto col territorio che dicevamo, su cui si collocano i pannelli, quindi ci vuole grande attenzione per vedere dove questi pannelli devono andare, se devono sottrarre terreno a un'agricoltura produttiva o se invece si possono collocare in zone improduttive. Ad esempio, tanti fattori e una grande attenzione nell'investimento di questi denari, ma la mafia non investe i suoi denari soltanto dove, diciamo così, li produce, dove governa col territorio. Oggi c'è un grande interesse naturalmente a altre zone d'Italia ed Europa, in particolare il nord Italia. Il fenomeno della crisi economica è un fenomeno che interessa molto le mafie. Ma è davvero subalterna Cosa Nostra rispetto all'andrangheta al nord? Qui non c'è una questione di campionati, ciascuno gestisce i suoi interessi. Certo, in questo momento l'andrangheta ha una capacità economica, soprattutto in termini di denaro contante, molto molto forte, perché è sicuramente il principale soggetto che gestisce l'importazione e il traffico di stupefacenti. Gli stupefacenti generano denaro contante, il denaro contante ha un problema, che c'è il momento nel quale deve essere in qualche modo circuitato nel mercato finanziario o insomma deve diventare qualche cosa di altro. In un momento di grande crisi economica come questo, le imprese hanno bisogno di liquidità, e Cosa Nostra o le mafie o l'andrangheta in particolare hanno questa liquidità. Quindi c'è sostanzialmente una vera offerta di questo denaro, soltanto che naturalmente loro offrono il pacchetto completo, insieme al denaro c'è il mafioso, c'è l'indranghetista dietro. Che poi la mafia e l'andrangheta abbiano in questo momento esigenze maggiori perché ha più liquidità, questo è senz'altro vero. Dopodiché, per la verità, noi fenomeni di grande concorrenza non li abbiamo riscontrati, abbiamo invece riscontrato la capacità di convivere. Consideriamo che anche al nord l'insediamento mafioso è antecedente, quindi oggi loro hanno più un problema di imprese già mafioso, di gestione ad esempio di circuiti e di esercizi commerciali che appartengono ad esempio a soggetti provenienti dal sud. Il rapporto con la politica e con la pubblica amministrazione, che viene mediato e che ha bisogno forse di professionalità un po' più evolute, qual è, diciamo, che tipo di riscontro c'è nelle varie fasi, nelle varie indagini, in questo tipo quella che possiamo chiamare la zona grigia, l'area grigia. Intanto abbiamo detto che abbiamo parlato di tradizione e di modernità, e l'insè della mafia è nel territorio, ma è anche nella capacità di aprire dei canali di comunicazione con la cosiddetta società civile. Non tutta la società civile è impermeabile alla mafia, non lo è mai stata. C'è un sacco di gente che anche per, come dire, cultura propria, per eredità di pensiero che gli viene dalle generazioni passate, ha proprio voglia di mafia. Quindi c'è un momento in cui c'è un ceto che cerca il dialogo con la mafia, cerca non solo di fare affari ma di ottenere favori dalla mafia. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo, il 5 di settembre alle 6.30 su Radio 24 ci potete ritrovare. Sarà una pillola, la pillola di 3 minuti di Italia in Controluce legata a temi di strettissima attualità.